in primo piano. Buongiorno a tutti, ben arrivati alla rassegna stampa di Radio 24. Ieri abbiamo parlato prevalentemente di politica per via della fine del congresso del PDL, oggi invece è l'auto a governare le pagine, le prime pagine, ma non solo le prime pagine, lunghe pagine dei quotidiani italiani. Ed è il tema Fiat Chrysler quello che è al centro dell'attenzione, perché ieri Obama, il presidente americano, ha bocciato il piano di salvataggio di General Motors, chiedendo e ottenendo l'allontanamento di Richard Wagner, il suo amministratore delegato, ma ha dato il via libera all'intesa tra Chrysler e Fiat. Quasi tutti i titoli dei principali quotidiani italiani a questo sono dedicati. La Stampa: Obama benedice Fiat Chrysler. Il Repubblica e Corriere identici: Obama sì alla Fiat per Chrysler, con grande evidenza. Divertente il titolo del Giornale: l'America la Fiat, per favore salvaci tu. Il Riformista: Fiat Obama. È comunque questo il tema che proprio riempie le prime pagine. Leggiamo dalla Stampa: Obama ha bocciato il piano di salvataggio del manager di General Motors, ma ha dato il via libera all'intesa Chrysler-Fiat, lasciando un mese di tempo per un progetto solido. Solo così saranno assicurati 6 miliardi di finanziamenti. Il Corriere affida a Massimo Gaggi un editoriale sul punto. I toni sono generalmente entusiasti dalla parte italiana ed è inevitabile che sia così. Cosa scrive Massimo Gaggi nel suo editoriale sul Corriere? È la prima volta da molto tempo che l'Italia, considerata come il resto d'Europa un'area in declino davanti alla crescita prepotente dell'Asia, torna a fare notizia negli USA in una luce positiva. Alcuni commentatori nei giorni scorsi avevano ironizzato sul salvagente italiano e avevano avanzato il sospetto che la Fiat volesse comprarsi la Chrysler con i soldi dei contribuenti americani. Obama, che pure è sensibilissimo allo stato d'animo dei taxpayers, ai quali si è rivolto almeno una decina di volte nel discorso di ieri, non ha dato retta alle critiche e ha deciso di mettere la faccia su questa operazione. Ha detto esplicitamente che la tecnologia Fiat è l'ultima speranza per Chrysler e ha promesso altri 6 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici alla casa se verrà presentato alla Casa Bianca un piano industriale credibile, altrimenti resterà solo la via del fallimento. Leggiamo dal Giornale un divertente, devo dire, un divertentissimo editoriale di Vittorio Macioce. A Cassino ancora non lo sanno, ma tocca a loro salvare l'America. Obama sta lì, lontano mille miglia, alto, bello, con le sorti del mondo sulle spalle e lo sguardo fisso a Detroit. Strizza un po' gli occhi e guarda la capitale mondiale dell'auto, milioni e milioni di fabbriche, pistoni, BL, gomme, gommisti, autoricambi. Ma quello che vede è solo fallimento e rovine. Allora va oltre, cerca più in là, e tutto un popolo osserva con un'ansia tachicardica il suo presidente e si chiede: chissà cosa sta pensando, chissà cosa ha in mente questo grande uomo, quello del destino, per tirarci fuori dalla crisi, per salvare la Chrysler, la General Motors? Silenzio, brevi sussurri. Obama guarda negli occhi tutto il suo popolo e dice: Cassino. Cassino, eh sì, Cassino, what's Cassino? Seconda guerra mondiale, Paisà, la linea Gustav, l'abbazia, le bombe, l'amaro benedettino e non solo Cassino ma anche Pomigliano d'Arco, Mirafiori, Termoli, il Lingotto. Un poco più in là, sì, la Fiat, quella che doveva fallire, quella che chissà chi se la compra, quella che Torino ha perso l'anima da quando Agnelli se n'è andato via. Insomma, come potete sentire, tutti toni abbastanza... insieme soddisfatti della riscoperta della Fiat, che effettivamente fino a pochi anni fa, prima della cosiddetta cura Marchionne, era data praticamente per spacciata a livello internazionale, e oggi invece si trova nella peculiare posizione di essere la salvatrice del colosso di Detroit. Aldo Bernacchi sul Sole 24 Ore, a pagina 2, analizza appunto l'azzeramento di un secolo di gloria, quello della casa americana General Motors e di Chrysler, nella sua analisi aggiunge un elemento che però è molto importante e interessante soprattutto per questa sponda dell'oceano. Ecco cosa scrive Aldo Bernacchi: dal successo di questa intesa può dipendere anche ed è questo un tema che altri giornali non pongono in evidenza, anche l'entità di tagli produttivi che Fiat ritiene oggi inevitabili in Italia e in Europa, come del resto si preparano a fare anche gli altri produttori continentali malgrado gli aiuti di Stato in difesa dell'occupazione. Il punto caldo in Europa è l'Opel, la casa tedesca, dopo il diktat di Obama e General Motors, potrebbe essere l'epicentro del primo drammatico terremoto per l'auto europea. Per chi si appassiona al tema automobile, suggerisco infine, e poi abbandoniamo il tema dell'auto, un interessante articolo a pagina 5 della Stampa, Europa, il risico dell'auto, l'autore è Marco Zatterini, il corrispondente da Bruxelles della Stampa, che analizza come le alleanze nel mondo delle quattro ruote stiano in questo momento girando molto velocemente, e quindi la nomina di Varin alla guida di Peugeot a Parigi abbia l'effetto di rimettere in moto il gioco degli accordi fra le grandi case automobilistiche europee. L'ipotesi che Citroën possa stringere un patto con Fiat o BMW, mentre invece Ford voglia staccarsi dall'accordo con Volvo. Un altro tema altrettanto positivo, sempre per il nostro stato d'animo, diciamo così, oltre che per le nostre tasche, è quello trattato invece dal Messaggero in prima pagina e poi a pagina 3 con un lungo articolo di Diodato Pirone, ed è quello presente in maniera meno evidente su altri giornali. Il Messaggero al tema dedica l'apertura della prima pagina, ed è quello delle tariffe. Luce e gas, cala la bolletta. L'Authority fissa le nuove tariffe e con tagli del 2% e del 7,5%, quindi ogni famiglia risparmia in media 92 euro. Da domani, scrive Pirone, luce e gas saranno meno cari. Il metano costerà il 7,5% in meno, mentre il prezzo della luce, l'energia elettrica, scenderà del 2%. Lo ha deciso l'Autorità per l'Energia, che ha calcolato in 92 euro annui il risparmio per una famiglia italiana con consumi medi. Scende del 5% anche il prezzo del GPL, il gas propano liquido, e il taglio delle bollette si aggiunge a quello scattato in gennaio, quando il gas era sceso già dell'1% e l'elettricità del 5,1%. Intanto anche il tasso Euribor, quello a cui sono legate le rate dei mutui variabili, è sceso al minimo storico, all'1,52%, facendo scattare un'ulteriore riduzione degli sborsi per 2 milioni di famiglie italiane. Quindi anche qui notizie positive. L'altro tema importante che sta crescendo e che nei giorni prossimi inevitabilmente crescerà ancora di più è quello del G20. Il G20 è l'incontro dei 20 governanti dei primi 20 paesi economicamente significativi del mondo, che si svolgerà da giovedì a Londra. A questo vertice, soprattutto in questo periodo di crisi, vengono attribuiti infinite speranze. Si spera in un accordo salvifico che possa in qualche maniera recuperare fiducia e forza all'economia, però c'è un primo vaticinio negativo, ed è quello niente poco di meno che di Ralph Dahrendorf, il grande sociologo, che a pagina 2 del Corriere della Sera, intervistato da Danilo Taino, che è il corrispondente dalla Germania del giornale, si dice totalmente pessimista. Il G20 fallirà, non ci sono le soluzioni globali, questo è il titolo dell'intervista. Ralph Dahrendorf è sicuro che il vertice del G20 di Londra, il prossimo 2 aprile, giovedì per l'appunto, fallirà. Tra virgolette, dice Dahrendorf, fallirà. Non raggiungerà gli obiettivi che gli erano stati dati originariamente, cioè essere il momento decisivo per uscire dalla crisi e ridisegnare l'ordine economico internazionale, sostiene. Domanda: perché? Io stimo Barack Obama e Gordon Brown, che è il primo ministro inglese, ma in questo caso sbagliano. Ritengono che questa sia una crisi globale, mentre la possiamo definire mondiale, ma non globale. Globale è il cambiamento climatico, che non può avere risposte nazionali, ma la crisi riguarda sì tutti, cioè è mondiale, ma ha risposte nazionali e queste contengono un nazionalismo economico. Io li vedo come globalisti, al contrario di Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, che sono mondialisti. Questa è l'origine del conflitto, che è la radice del G20 del 2 aprile. È sbagliato credere che ci siano soluzioni globali. C'è poi una previsione, quasi una profezia. Taino chiede a Dahrendorf quali sono le conseguenze della crisi nel lungo periodo. Risponde il filosofo, sociologo, economista: alla fine tutti avremo ridotto gli standard di vita di almeno un 20%, torneremo circa ai livelli precedenti a quelli di Ronald Reagan e di Margaret Thatcher. Per alcuni aspetti torneremo a un modo di vivere che somiglierà un po' agli anni 50 e 60, con molta più tecnologia, ma senza l'ottimismo di quei decenni. Non ci sarà quindi un accordo su un pacchetto di stimolo globale, sostiene Dahrendorf. Ci saranno dichiarazioni generiche sulle nuove regole da scrivere, forse verrà un po' rafforzato il Fondo Monetario Internazionale e si identificheranno alcuni capri espiatori, in particolare i paradisi fiscali. Niente di davvero importante, tanto che tutti sono impegnati a abbassare le aspettative. Il padrone di casa Brown in testa, dopo che le avevano alzate moltissimo. Stiamo parlando del G20, cioè del vertice mondiale dei capi di Stato delle prime 20 economie mondiali, che si terrà a Londra dal 2 aprile, da giovedì. Si diceva delle previsioni fosche di Ralph Dahrendorf. Tutti si domandano intanto come sarà accolto Barack Obama in Europa. Secondo il riformista non sarà sicuramente un trionfo. Ecco cosa scrive Luigi Spinola in prima pagina. Qualcuno ricorda l'Obama mania che travolse l'Europa la scorsa estate? Il Tiergarten berlinese gonfio di folla, l'elite continentale in fila per una foto. Il candidato democrat al debutto sul palcoscenico internazionale pareva davvero uno spot dell'America che l'Europa ama amare. La magia della campagna però ormai è lontana e al presidente degli Stati Uniti, che atterra oggi a Londra, prima tappa del suo viaggio transatlantico, non sarà concessa neanche l'indulgenza solitamente accordata durante una luna di miele. Prosegue Spinola. L'agenda è fittissima, tre vertici, il G20, la NATO e gli incontri tra Unione Europea e Stati Uniti, e una sfilza di incontri bilaterali da Hu Jintao a Medvedev. Ma lo scetticismo diffuso, il rischio flop è assai alto, e per quanto riguarda il G20 quasi assicurato. Il partito della spesa, l'asse anglosassone Obama Gordon Brown, che promuove lo stimolo globale, dovrà concedere parecchio ai più parchi europei, e qui viene evocata il contrasto di linea tra appunto le due democrazie anglosassone, che sono piuttosto tese a investire soldi pubblici nella salvezza delle banche, e invece il resto d'Europa, che è piuttosto timido su questo, soprattutto sulla crescimento del debito. A Barack Obama non basta più non essere George W. Bush per convincere, continua Spinola e conclude, e neanche promettere amicizia e cooperazione a mezzo mondo, secondo le prescrizioni dello smart power caro a Hillary Clinton. Il test, al netto dei risultati concreti che il presidente riuscirà a ottenere nell'arco di una settimana qui in Europa, è un test di leadership. Tanto sulla gestione della crisi quanto sul rilancio dell'Alleanza Atlantica si attendono segnali forti da Obama, per essere certi che non si tratta di un bluff e rassicurare noi europei, esclusi dal G2 con la Cina e diluiti nel G20, che la vecchia alleanza transatlantica conta ancora qualcosa. I giornali di oggi sono poi qua e là riempiti da temi di attualità e di cronaca tutti piuttosto interessanti. A me ha particolarmente stupito La Stampa, un'inchiesta svolta a Palermo da due bravissimi giornalisti che si chiamano Francesco Lalicata e Monica Ceravolo, sui piccoli ladri di immondizia. Il giornale pubblica una foto emblematica in prima pagina, bimbi dannati tra i rifiuti, in questo caso il titolo, sono dei tre bambini infilati nei cassonetti dei rifiuti del centro della città di Palermo. Palermo non vanno a scuola per frugare tra i rifiuti dei ricchi, i genitori li sfruttano perché i ragazzini non sono imputabili. Si tratta veramente di furto, perché prendere la spazzatura costituisce un reato e equivale a rubare, soprattutto da quando anche il comune di Palermo si è adeguato alle nuove norme, ma se i bambini vengono scoperti a rovistare dentro i cassonetti della spazzatura non sono imputabili, in quanto notoriamente sotto i 14 anni nessuno è sottoponibile a giudizio. E questo rappresenta un motivo in più per sfruttarli. L'articolo di Monica Ceravolo prosegue: si spostano a bordo dell'APE, i loro genitori evidentemente, dalle periferie alle zone più ricche della città, dove la gente butta ancora cose utilizzabili. Accostano davanti ai recipienti della nettezza urbana, gli adulti restano a bordo col motore acceso a controllare i movimenti sulla strada, i ragazzini scendono, si infilano nell'immondizia e passano qualunque cosa possa fruttare qualche euro. E le foto, devo dire, sono piuttosto impressionanti e sicuramente non fanno onore a questo paese. Un altro tema importante e sicuramente da segnalare è quello che riguarda invece l'arrivo di controlli sulle colf. Ecco, Repubblica, prima pagina. Offensiva dell'INPS per arginare il lavoro nero. Colf in arrivo 700.000 controlli. Il testo: l'INPS è pronta a lanciare una vasta offensiva contro il lavoro nero tra le collaboratrici domestiche. In arrivo una serie di controlli mirati tra i datori di lavoro. Rivoluzione anche per i pagamenti dei contributi delle colf. Saranno spedite 700.000 lettere che, per semplificarne il calcolo, conterranno i bollettini prestampati con gli importi dovuti. Potranno essere versati alle poste, in banca, in tabaccheria e anche online. Un altro tema, questo divertente, ma che sicuramente farà indignare qualche purista dell'alimentazione, è l'ultima beffa dell'Unione Europea, ma in parte anche del nostro legislatore: l'aranciata senza arance. Sì del Senato alla legge appunto europea varata a Strasburgo. Bastano aromi e coloranti, non sarà più necessario, come è adesso, che almeno in quota l'aranciata contenga effettivamente succo del frutto, succo di arancia. E venne l'ora delle arance senza arancio, scrive Licia Granello. Con l'approvazione dell'articolo 21 dell'annuale legge comunitaria, ieri il Senato ha dato il via libera alla commercializzazione di bibite con colore e aroma d'arancia. Dell'agrume mediterraneo però nemmeno l'ombra, visto che la norma spazza via l'obbligo del già misero 12%, ecco questa era la quota, percentuale minima ammessa finora. Tutte sul piede di guerra, ovviamente, sono le associazioni di categoria, dai consumatori dell'ADOC, che dicono è una legge che mette a rischio la salute e la qualità dell'alimentazione dei cittadini e crea un danno di centinaia di milioni di euro ai produttori di arance e al Made in Italy, ai commercianti della FIPE, che è la Federazione dei Distributori, per l'appunto, un inganno per i consumatori e un danno di immagine ai pubblici esercizi. Si calcola che, grazie alla normativa approvata ieri, in un anno verranno azzerati circa 7 milioni di litri di succo destinati ai consumatori, pari a 235.000 quintali di arance. Ora poi bisognerebbe valutare quanta parte di queste arance effettivamente provengano dall'Italia, laddove si parla di Made in Italy, ma sicuramente ci sarà molta meno arancia nelle aranciate. Tutte queste arance, 235.000 quintali, saranno destinate, in mancanza di altri sbocchi, al macero. Il tutto senza dimenticare che l'Italia è una delle nazioni a più alto tasso di sovrappeso infantile. Se per un bambino su tre esiste un problema di disciplina alimentare, l'irrompere sul mercato di bibite sempre meno valide e sempre più vuote dal punto di vista nutrizionale può avere soltanto effetti deleteri. Questo scrive Repubblica. E vi saluto e vi do appuntamento a domani.